Italia in controluce. Buongiorno, buon pomeriggio, oggi è il 7 dicembre, vi parla Daniele Biacchessi. Parliamo di un museo molto particolare che è stato inaugurato nei giorni scorsi a Milano, è il Museo dei Rom e il reportage di Maria Chiara Grandis. Il primo documento storico che parla di zingari in Italia è datato 1422, la cronaca di Forlì. Il cuore rallenta, la testa cammina. Questo museo è nato soprattutto perché ci sia un interscambio culturale con i vicini più diversi. Parliamo di un gruppo di cittadini italiani milanesi di minoranza Rome Sinti, presenti sul territorio cittadino da secoli. Per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Noi ci rivolgiamo non solo al quartiere, ma a tutta la cittadinanza, perché questo è il primo tentativo di cercare di mettere insieme tutti gli aspetti culturali all'interno di una piccola area che è questa, quella di un piccolo campo comunale di Milano. È dedicato a Fabrizio De André, il primo museo della cultura Rom in Italia. Si chiama Museo del Viaggio e ha sede a Milano, al campo comunale di Via Impastato, nel quartiere di Rogoredo. Fra la tangenziale e le ferrovie, qui vive una piccola comunità di 40 persone, diverse generazioni di un'unica famiglia allargata Rom, nonni, figli, nipoti. Un campo comunale diverso da come lo si immagina. C'è il numero civico sul cancello all'ingresso, ci sono le auto parcheggiate, le aiuole con i fiori, le case prefabbricate e le galline in cortile. Il museo è gestito dall'Opera Noma di Milano e dalla cooperativa Romano Drom. Lo visitiamo con Giorgio Bezzecchi, Rom Arvato, italiano di origine croata che di mestiere fa il mediatore culturale. Qui troviamo diverso materiale documentale, ma soprattutto troviamo delle pubblicazioni del Centro Studi Zingari di Roma che partono dal 65. E abbiamo tutta questa documentazione che è particolarmente interessante e devo dire che era l'unica documentazione esistente per gli anni 60, 70 e 80. C'è anche sociologia, letteratura, la cucina e diverso altro. Sempre all'interno del museo hai anche i prodotti tipici della professione dei Rom e quindi hai le pentole di rame, il ferro lavorato, piccole collane, oppure la stessa bandiera romanì, una bandiera dove hai sotto il verde, sopra l'azzurro con una ruota al centro rossa, il verde rappresenta la terra, l'azzurro il cielo, la ruota il movimento, girare per girare, per il piacere di girare. Proprio Giorgio Bezzecchi a tradurre le parole di Cora Canè per Fabrizio De André. E poiché il viaggio distingue la cultura romanì, al museo sono esposti i mezzi di trasporto usati nel tempo dai Rom. Qui, come puoi vedere, c'è la carovanina del 50, abbiamo le roulotte degli anni 70-80, per poi passare al camper degli anni 90-95, per poi passare al monoblocco prefabbricato degli anni 90-95, per infine arrivare alla casa mobile di oggi, che è quella abitata. In questo momento sono abitate anche le roulotte e il monoblocco, ma naturalmente non tutti possono permettersi, quindi la casa mobile è quella ambita da tutti, a cui arriveranno anche tutti gli abitanti del campo. Qui invece abbiamo la carovanina, abbiamo cercato di mantenere tutto ciò che era originale. Abbiamo le porte che sono quelle originali degli anni 50, i vetri sono stati ripristinati, sono quelli degli anni 50. All'interno puoi vedere capi d'abbigliamento utilizzati dalle diverse comunità. Qui ad esempio hai una gonna del gruppo Cora Canè, altre gonne di Rom Istriani, cravatte con queste carovanine molto piccole ma accoglienti, ci si spostava, era un nomadismo frequentemente ristretto all'attività che a volte era quella dello spettacolo viaggiante, a volte poteva essere quella della raccolta differenziata dei rottami eccetera, oppure seguendo il bestiame o la raccolta anche della frutta. Oggi il concetto di casa sta cambiando anche per i Rom. Giorgio Bezzecchi, 50 anni, per più di 20 consulente nell'ufficio nomade del Comune di Milano, si definisce sì di cultura nomadica, ma stanziale. Non vivo qui al campo, ho maturato il bisogno della casa come molti altri Rom e naturalmente facendo le domande, ho fatto un piccolo mutuo, sono riuscito a acquistare nell'Interland, in provincia di Milano, con mia moglie naturalmente, figli e nipoti. Sono scelte. Eravamo su questo, hanno ampio margine di scelta. Uno può scegliere di andare a vivere in casa o può scegliere di vivere al campo senza essere considerato un traditore. Ma allora perché siamo abituati a pensare agli insediamenti rom come grandi campi fuori controllo ai margini delle città? Quella dei campi è una scelta dell'amministrazione. La famiglia della ragazza rom è di 40-50 persone. Sono i due anziani, i figli, i nipoti e i pronipoti. Questa è la famiglia allargata. Quando i campi sono molto grossi, si parla di nomadopoli e quindi di mettere insieme diverse famiglie allargate, e diventa problematico e difficile da gestire, se non proprio ingestibile. Quindi dobbiamo iniziare a pensare a situazioni come questa, cioè alle microaree, al fine di permettere alla famiglia allargata di poter stanzializzarsi. Noi votiamo, siamo cittadini italiani, io ero anche nell'esercito come molti altri rom, però non appariamo, non abbiamo visibilità sociale, di noi non si parla, della maggioranza dei rom e dei sinti non si parla, si parla solo di rom e dei sinti, i più poveri, che hanno visibilità sociale, quindi quelli della metropolitana, la donna che ti dà fastidio al semaforo perché è insistente e la piccola microcriminalità. Al campo di Rogoredo, uno degli 8 comunari di Milano, la mattina non ci sono bambini, vanno tutti a scuola, alle materne, elementari e poi medie e superiori. Anche le ragazze lavorano, fanno le commesse, le impiegate, oppure sono ragioniere. Oltre a una parte documentale, il Museo del Viaggio all'interno del campo si compone di una parte viva. Ci trovi, ad esempio, gli anziani che fumano, guardano la TV, ascoltano la musica e ti raccontano di quando hanno fatto la guerra, come Mirko Bezzecchi, 73 anni. Erano in campi concentramenti, Tossicia, Teramo e Lipari, ragazzino. Per fortuna siamo rimasti vivi, io e mia mamma. Mio papà è deceduto, papà di mia moglie è passato ai forni Auschwitz, mia zia era Auschwitz. Tanti nostri erano ammazzati, ma non erano registrati, perché le donne facevano i bambini e non venivano registrati. E quelli dove sono? Giardino d'Europa, l'Italia, io l'ho girata anche tutta, ero anche a Portogallo, Spagna, Francia, ero quasi vicino Russia, Serbia, io giro, mi piace, ci tengo, abitudini, non so io cosa sia, mi vengono neanche noi, me ne vado. Al campo di Rogoredo partiranno anche corsi di musica aperti a tutti, spiega Bezzecchi. Due corsi, uno di musica e uno di lingua e cultura. Quello di lingua e cultura verrà gestito da me e altri docenti, quello di musica dal grande maestro Jovitz Jovica, suona la fisarmonica. Molto ricercata, la musica roma è molto apprezzata fra gli artisti. Il Museo del Viaggio di Milano è nato con l'obiettivo di favorire l'integrazione fra gli abitanti e il resto della città, fra rom e gage, come vengono chiamati gli altri. La paura spesso è reciproca, spiega chi vive al campo, ma questo progetto è un'eccezione per Maurizio Pagani, presidente dell'Opera Nomadi di Milano. Una piccola comunità che ha sempre avuto un'interazione positiva nel quartiere in cui ha vissuto e con le persone di questa città. Soprattutto in modo autonomo è riuscita a costruirsi dei percorsi di integrazione e di autonomia lavorativa ed economica che l'hanno tenuta distante complessivamente da quelli che sono i problemi che normalmente attanagliano invece il resto degli insediamenti abitati anche dai rom, cioè problemi legati alla piccola devianza, alla microcriminalità. Il futuro mi sembra molto difficile, intanto perché c'è una ostilità crescente a livello istituzionale che non risparmia proprio nessuno nel cercare di interpretare, insomma, oggi chi sono i rom, non solo qual è la loro condizione generale, ma quali sono le possibilità di sviluppo ed emancipazione di queste comunità. C'è una mancanza di dialogo fondamentale e di confronto. Questo porta a una chiusura molto netta anche da parte delle comunità e all'affermazione di comportamenti che in fondo sono dannosi per le comunità stesse. Quindi un futuro che in questo momento non si preannuncia positivo per nessuno. Per Pagani, il Museo del Viaggio Fabrizio De André di Milano, così come il campo che lo ospita, sono un esempio da seguire. Ci dice che è possibile vivere anche in una città complessa come quella di Milano, in un quartiere come questo, mantenendo non solo le proprie piccole abitudini, ma in relazione con gli altri, in una relazione rispettosa e interessante. Questo è un luogo in cui le persone possono scoprire la vita degli altri senza averne paura e magari traendone anche qualche suggestione per migliorare la propria e viceversa. Quindi noi non diciamo che questa debba essere la soluzione per tutti, è però l'esempio che la vita di ognuno di noi spesso si differenzia significativamente o anche di poco da quella degli altri e non è forse giusto omologare tutti ad un unico sistema culturale. E la Italia in controluce, torniamo domani alle 13.30 su Radio 24.